Capitolo 152esimo. La conquista del Vello. Sull'Olimpo Era e Atena discutevano angosciate i mezzi da suggerire al loro protetto Giasone perché egli potesse impossessarsi del Vello d'oro. Infine decisero di chiedere l'aiuto di Afrodite e costei indusse il suo malvagio figlioletto Eros a far sì che Medea, figlia di re Eete, concepisse un'improvvisa e violenta passione per Giasone. Afrodite dunque trovò Eros, che giocava ai dadi con Ganimede, barando a ogni tiro, e lo pregò di scoccare una delle sue frecce nel cuore di Medea. Gli offrì come ricompensa una palla d'oro adorna di cerchi di smalto azzurro, che un tempo era stata di Zeus bambino. Quando la si lanciava in aria, lasciava dietro di sé una scia luminosa come di stella cometa. Eros accettò il dono con gioia e Afrodite promise alle dee sue compagne di rinfocolare la passione di Medea con un nuovo incantesimo, un uccelletto torcicollo vivo inchiodato ad ali aperte su una pietra focaia. Frattanto, durante il consiglio di guerra che si teneva nell'ansa del fiume, Giasone propose di recarsi con i figli di Frisso nella vicina città colchica di Ea, dove regnava Eete, e di chiedergli cortesemente il Vello. Soltanto se il re avesse rifiutato sarebbero ricorsi alla forza. Tutti applaudirono a quella proposta e Augia, fratellastro di Eete, si unì alla comitiva. Si avvicinarono a Ea attraversando il cimitero di Circe lungo le rive del fiume. Colà i cadaveri degli uomini erano esposti sulle cime dei salici perché gli uccelli da preda li divorassero. Infatti gli abitanti della Colchide seppelliscono soltanto le donne. Ea apparve loro fulgida dall'alto di una collina sacra a Elio, padre di Eete, che usava farvi pascolare i suoi cavalli. Efesto aveva costruito il palazzo reale per ringraziare Elio, che era corso in suo aiuto quando egli stava per essere sopraffatto dai giganti durante l'assalto all'Olimpo. La prima moglie di Eete, la ninfa caucasica Asterodea, madre di Calciope, la vedova di Frisso e di Medea, la sacerdotessa maga di Ecate, era morta alcuni anni prima, e la seconda moglie del re, Idia, gli aveva generato un figlio, Apsirto. Mentre Giasone e i suoi compagni si avvicinavano al palazzo, si imbatterono dapprima in Calciope, che fu sorpresa al vedere Citisoro e i suoi altri figli già di ritorno, e, udita la loro storia, si profuse in ringraziamenti, benedicendo Giasone che li aveva salvati. Poi si fece avanti Eete, accompagnato da Idia, col volto rabbuiato, poiché Laomedonte si era assunto l'incarico di vietare a tutti i greci l'accesso al Mar Nero, e gli chiese a Egeo, il suo nipote favorito, di spiegargli il perché di quella visita. Egeo replicò che Giasone, cui egli e i suoi compagni dovevano la vita, era giunto lì per prendersi il Vello d'oro secondo i consigli di un oracolo. Ma poiché gli occhi di Eete si accesero di collera, subito aggiunse: «In cambio del Vello, codesti nobili greci saranno ben lieti di sottomettere i sarmati al tuo volere». Eete scoppiò in una risata di scherno, poi ordinò a Giasone e ad Augia, che non si degnava più di riconoscere per fratello, di ritornare là donde erano venuti, se non volevano che egli facesse mozzar loro le mani e la lingua. A questo punto la principessa Medea uscì dal palazzo, e quando Giasone rispose in modo gentile e cortese alle parole del re Eete, forse vergognandosi della sua collera di poco prima, cominciò a contrattare la cessione del Vello d'oro, ponendo però condizioni che parevano inaccettabili. Giasone avrebbe dovuto aggiogare all'aratro due tori dagli zoccoli di bronzo che sputavano fiamme, creature di Efesto, tracciare quattro solchi nel campo di Marte e poi seminarvi alcuni denti di serpente, i pochi rimasti tra quelli che Cadmo aveva seminati a Tebe. Giasone rimase impietrito, chiedendosi come avrebbe potuto portare a termine una simile impresa, ma Eros scoccò una freccia che penetrò nel cuore di Medea fino in fondo. Calciope, recatasi quella sera nella camera di Medea per ottenere il suo appoggio in favore di Citisoro e dei suoi fratelli, si accorse che la principessa si era pazzamente innamorata di Giasone. Quando Calciope si offrì di farle da mezzana, Medea dichiarò che avrebbe aiutato Giasone ad aggiogare i tori all'aratro alla sola condizione che egli la riportasse in Grecia sul largo come sua moglie. Mandarono a chiamare Giasone, che giurò su tutti gli dei dell'Olimpo di essere per sempre fedele a Medea. La principessa allora gli diede un farmaco, distillato dal croco caucasico color zafferano, che l'avrebbe protetto dalle fiamme uscenti dalle nari dei tori. Questo magico fiore infatti sbocciò dal sangue di Prometeo torturato. Giasone accettò grato il dono e dopo una libagione di miele si sparse il magico succo di croco sul corpo e sulle armi. Gli fu così possibile domare i tori e costringerli ad arare il campo chini sotto un giogo adamantino. Giasone arò tutto il giorno. Al calare della sera seminò i denti di serpente e subito dai solchi balzarono uomini armati. Giasone li indusse a battersi l'uno contro l'altro, come già aveva fatto Cadmo nell'identica occasione, gettando fra loro una pietra, poi eliminò i pochi feriti sopravvissuti. Reete, tuttavia, non aveva intenzione di cedere il vello e spudoratamente rinnegò il patto concluso. Minacciò di dar fuoco al largo che era ora ormeggiata nella baia di Ea e di massacrare l'equipaggio. Ma Medea, cui il re si era imprudentemente confidato, guidò Giasone e alcuni suoi compagni al sacro recinto di Ares, a circa 6 miglia dalla città. Colà stava appeso il vello, custodito da un orrendo e immortale drago dalle 1000 spire, più lungo del largo stessa e nato dal sangue del mostro Tifone che era stato ucciso da Zeus. Medea placò il drago sibilante con misteriosi incantesimi e poi, servendosi di ramoscelli di ginepro appena recisi, gli spruzzò negli occhi gocce soporifiche. Subito Giasone staccò il vello dai rami della quercia e, accompagnato da Medea, si affrettò verso la baia dove si trovava Largo. I sacerdoti di Ares avevano frattanto dato l'allarme e, afferrate le armi, i calchi ferirono Ifito, Meleagro, Argo, Atalanta e Giasone durante l'inseguimento. Tutti però riuscirono ad aggrapparsi alle murate del largo in attesa e la nave ripartì in gran fretta inseguita dalle galere di Eete. Il solo Ifito soccombette per le ferite riportate. Medea ben presto guarì tutti gli altri con farmaci di sua invenzione. Ora i sarmati che Giasone si proponeva di sottomettere erano i discendenti di alcune amazzoni catturate da Eracle durante la nona fatica. Trasportate su 3 navi, le prigioniere riuscirono a liberarsi dai ceppi e uccisero i marinai che dovevano custodirle, ma ignare com'erano dell'arte della navigazione, andarono alla deriva nel Bosforo Cimmerio e sbarcarono infine a Cremni, nella terra dei liberi sciti. Colà catturarono una mandria di cavalli selvaggi, li montarono e cominciarono a far scorrerie nella zona. Gli sciti, scoperto da alcuni cadaveri caduti nelle loro mani che gli invasori erano donne, inviarono una deputazione di giovanotti a offrire alle amazzoni amore anziché guerra. La proposta fu accettata, ma le amazzoni acconsentirono a sposare gli sciti soltanto se essi si fossero trasferiti sulla riva orientale del fiume Tanai. Colà ancora vivono i loro discendenti sarmati e rispettano certe antiche usanze delle amazzoni. Ad esempio, ogni fanciulla deve aver ucciso almeno un uomo in battaglia prima di maritarsi. Questa parte della leggenda si innesta sul mito primitivo delle prove nuziali imposte a Diomede, che intendeva sposare la figlia del re. La magia amorosa di Afrodite, dettagliatamente descritta da Teocrito, era praticata in tutta la Grecia e persino nel circolo di Socrate. L'uccello torcicollo che fa il nido nei salici, sibila come un serpente e depone uova bianche, fu sempre sacro alla luna. Io, luna, lo mandò come messaggero a Zeus innamorato. In Europa viene anche chiamato compagno del cuculo e si parla del cuculo nella leggenda di Zeus innamorato della dea lunare Era. Accendere il fuoco con l'acciarino veniva considerato un atto di magia che poteva suscitare amore, così come la parola punk in inglese significa sia esca sia prostituta. Eros, con la torcia e le frecce, appartiene al simbolismo post-omerico, ma ai tempi di Apollonio Rodio il suo malvagio modo di comportarsi e la disperazione di Afrodite erano un luogo comune della letteratura che Apuleio sviluppò poi nel suo Amore e Psiche. L'usanza della Colchide di esporre i cadaveri sui salici ricorda il costume dei Parsi di abbandonare i morti sulle torri del silenzio perché gli avvoltoi li divorino, allo scopo di non profanare il fuoco, sacro dono del sole, con l'atto della cremazione. Apollone Orodio parla di tale usanza, giustificando il rammarico di Pelia per le mancate esequie di Frisso, poiché egli era greco, quei barbari riti gli parevano indegni. I tori di Ete, che sputavano fuoco, si ricollegano ai tori di bronzo in cui si arrostivano vivi i prigionieri ad Agrigento, una colonia rodia, forse in onore del dio Elio, il cui simbolo era appunto un toro di bronzo. Ma gli uomini nati dai denti di serpente, seminati da Giasone, non quadrano con la leggenda. Benché sia plausibile che Cadmo, uno straniero cananeo, combattesse contro i pelasgi autoctoni che avevano invaso la Beozia, Giasone, nella sua qualità di indigeno candidato al regno, avrebbe dovuto piuttosto affrontare la prova dell'aratura, della seminagione e del raccolto imposta anche a Kilwich, una prova rituale che si poteva mimare facilmente a mezza estate, per poi lottare con un toro oppure sostenere una finta battaglia contro uomini travestiti da animali. La sua conquista del vello d'oro ricorda la fatica di Eracle, che deve raccogliere i pomi delle Esperidi, anch'essi custoditi da un drago insonne. Almeno 4 delle fatiche pare fossero imposte a Eracle come prove nuziali. Giasone e Eracle sono infatti l'identico personaggio, almeno per quanto riguarda le prove nuziali. E la prima e la settima fatica rivivono qui parzialmente nell'uccisione del cinghiale di Mariandine e del leone di Cizico attribuite a Giasone. Giasone era naturalmente un appellativo di Eracle. Il croco caucasico di Medea è il velenoso colchicum, ossia il colchico, considerato dagli antichi come il più efficace rimedio contro la gotta, e lo è ancora. Esso contribuì a creare la misteriosa fama di Medea. I sarmati erano gli arcieri a cavallo sciti che galoppavano nelle steppe. Non c'è da stupirsi se Eete rise all'idea che Giasone, con la sua fanteria pesante, tentasse di sopraffarli.